Avvocati Weekend di Giovanni Capuano e Pierluigi Pardo. 800240024, Giorgio De Luca, autore di questa puntata, Pietro La Corte in regia. Telefono in mano, dovunque siete, a casa, in auto, fuori dallo stadio, perché appena visto una delle partite di questo pomeriggio, o magari siete tifosi del Milan e del Parma, state andando al Tardini, ovunque siete, telefono in mano, 800240024, perché questa prima domenica di settembre, con il campionato, ha regalato emozioni, 14 gol, 16 se contiamo anche Sampdoria-Torino, e poi soprattutto qualche primo verdetto. Centralmente, gran pallone, Maxi Lopez può colpire, Maxi Lopez dopo la traversa, questa volta non sbaglia, il Chievo in vantaggio, primo gol con la maglia del Chievo per l'argentino. Ora Keita ha spazio, l'ex Barcellona, per attaccare, puntare i limiti dell'area, ora Fade, c'è Lulic all'interno dell'area di rigore, ancora Brafade per il cross che taglia tutta l'area, Candreva! 1-0 Lazio, ha segnato Antonio Candreva. Poi c'è il pareggio della Fiorentina, 0-0 col Genoa, poi c'è una classifica, ve la leggo, Juventus e Roma 6 punti, Inter, Sampdoria, Atalanta 4, se questa sera il Milan non passa a Parma, pensate, Juventus e Roma sono già da sole, là in testa, davanti a tutti, io non credo si possa parlare di fuga, però evidentemente è un duello che già da questa sera potrebbe essere certificato, 800-24-00-24, intanto saluto Dario Ricci da San Siro, ciao Dario. Ciao, ciao Giovanni. Posso però prima chiamare i miei amici napoletani? Io li voglio tutti qui, certo. 800-24-00-24. Adesso mi devono dire chi aveva ragione ieri, quando criticava, e ho ricevuto anche tante critiche, le parole di Benitez. Dovete dirmi se davvero Benitez oggi ha perso per colpa dei giornalisti di Milano e Torino, se davvero il mercato del Napoli è fantastico. 800-24-00-24. Dario, aspetta, ti faccio sentire Icardi subito a Sky. È una cosa bella perché l'ha fatto a San Siro, come ci piace a noi, giocare qua. I riflettori oggi erano tutti puntati su Zaza per quello che ha fatto in nazionale, gli hai rubato la scena alla grande. Lui si è meritato questa nazionale, ha fatto bene anche all'inizio, la prima partita, ha fatto un bellissimo gol, dopo ha giocato pure in nazionale e ha fatto anche gol. Io lo conosco dalla Sampdoria, dal tempo della Sampdoria, è un grandissimo giocatore. Vedi, adesso Mazzari, sì, grandissimo giocatore Zaza, oggi Zaza e Berardi non bene, Berardi anzi malissimo perché ha preso anche un cartellino rosso, tra l'altro per una gomitata assolutamente inutile sul 5-0 per l'Inter. A proposito, Squinzi settimana aveva detto quello che conta è che Zaza metta due palline all'Inter, è finita come un anno fa, 7-0 per i nerazzurri. Dario, campionato che se questa sera non vince il Milan a Parma, dice che Juventus e Roma sono già là da sole, che Napoli è lo stesso dell'anno scorso, che ne dici? Direi che si fa subito stuzzicante la cosa, anche perché poi sabato qui a San Siro c'è il Milan-Juventus, quindi potrebbe essere scontro contro al vertice, oppure comunque una gustosissima, classicissima come d'abitudine. Ne parliamo con il nostro primo ospite, Riccardo Signori, l'inviato del giornale. Beh, Riccardo, perdona il paradosso, posso farti la prima domanda sul Sassuolo? Che delusione questi Zaza e Berardi, altro che la Norvegia, San Siro è tutta un'altra cosa. Sì, effettivamente Zaza praticamente non ha giocato e questa è stata la cosa più negativa vista, ma anche il Sassuolo non ha giocato perché in realtà è come se non fosse entrato in campo, come non avesse imparato nulla dall'anno scorso, dal settembre dell'anno scorso, e questo lascia un po' perplessi perché anche il suo allenatore qualcosa dovrebbe ogni tanto pensare, cambiare e valutare. Fra poco ritorniamo sull'Inter, Giovanni, ma guardiamo anche con Riccardo il resto della giornata. Napoli, capo col Chievo, e adesso questo rinnovo del contratto tra Benitez e De Laurentiis, che l'allenatore ieri ha quasi dato per fatto, mi sembra tutt'altro che scontato. Tutti i segnali del Napoli non sono i primi, penso che anziché pensare al contratto dovrebbero pensare a cercare di vincere le partite e comunque di mettere la squadra in campo in modo tale che anche se qualche rovescio, qualche sverone come il rigore sbagliato oggi c'è, però la squadra vada e vinca, perché mi sembra che sia Napoli già troppo diverso da quello dell'anno scorso. proposito di giovani, questi Gabbiadini e Okaka sono convocabili, quindi Conte. Sì, Gabbiadini e Okaka, che sono gli autori dei due gol, lo ricordiamo, con cui la Sampdoria ha battuto oggi il Torino. Tra l'altro poi sentiremo anche un Ventura particolarmente arrabbiato per l'approccio del suo Torino, che forse si è un po' imborghesito dopo l'ottima stagione scorsa. Sì, infatti dicevamo appunto Gabbiadini e Okaka sono altre due idee che possono stuzzicare il CT. Ma Gabbiadini era anche un suppallino anche in vista Juve, tant'è vero che fra i tre che va in mano, Gabbiadini, Berardi e Zaza, quello su quale puntava per primo era Gabbiadini. Quindi ci può stare benissimo che lo si riveda in nazionale. E invece sarà interessante vedere Zaza se riuscirà in campionato a esprimersi come si è espresso in nazionale. Visto qua è inquietante. Berardi secondo me è invece uno che deve mettere a posto la testa, perché anche oggi si è fatto spendere in modo poco furbo. Un po' eccessivo. Sì, ci sono molti che scrivono Berardi, nuovo Balotelli. Berardi è recidivo, tra l'altro, con questi colpi di genio. 800 24 00 24, se qualcuno vuole commentare quella gomitata a Juan Jesus, ripeto, sul 5-0 metà campo, totalmente inutile, che gli è costata il cartellino rosso e credo almeno 3 giornate di squalifica. Poi vedremo domani che cosa decide il giudice sportivo. Prima di salutarti, ma poi torniamo a San Siro, Dario, io volevo capire se stuzzica l'idea che già questa sera potrebbe essere duello tra Juve e Roma. Ecco, lo chiediamo proprio a Riccardo Signori. Questo il fatto, Riccardo, che già da stasera potrebbe essere duello Juve-Roma, se il Milan non passa a Parma, abbiamo già due capolista ben definite pronte a riproporre la sfida dello scorso anno, è stuzzicante oppure in qualche modo già indirizza il campionato? È una previsione facile da fare e se va in porto è una previsione che si avvera. Non sempre le previsioni che si avverano sono le cose che portano bene o sono le migliori. Io penso che quest'anno però il campionato qualche momento di spettacolarità o perlomeno di tensione in più ci sarà. Non credo insomma che la Juve e il Napoli riescano a fare un vuoto come si poteva pensare l'anno scorso. Credo che la stessa Inter qualcosina più farà. Grazie Dario, ti chiedo di restare lì Dario. C'è Mazzari che sta iniziando a parlare ai microfoni di Sky Sport, io ricordo il numero 800 24 0024. Mazzari che oggi ha provato con le due punte, con Hernanes e con Kovacic, e ha segnato 7 gol al Sassuolo. Evidentemente l'Inter può proporre anche qualcosa di diverso da quello che è il credo del suo allenatore. Proviamo a sentire le prime battute di Mazzarri. Anche convocato con la nazionale italiana, se non fosse entrato, ma invece è stato già convocato con la nazionale argentina per un amichevole e ha giocato 8 minuti nel finale di Uruguay Argentina in maggio. Sì, stiamo parlando di Cardi che non potrà mai più mettere la maglia dell'Italia. Tema mi sembra non d'attualità, visto che Cardi presto entrerà nel giro della nazionale argentina. Mazzarri. Vogliamo fare adesso? Se dovesse andare bene per un po', finché devo tenere il gesso, rompiamo anche l'altro. La teniamo per 2-3 mesi, sì, rompiamo anche l'altro, addirittura, quando guarisce. Sacrifici estremi per Mazzarri, va bene, Andrea Paventi. No, io volevo capire dall'allenatore dell'Inter se questo equilibrio che oggi è stato trovato proprio in tutte le fasi, no? Un'Inter praticamente perfetta, è qualcosa che può far pensare che nel futuro si può continuare con questo sistema di gioco, con questa qualità e con questa capacità anche proprio di partire, di avere un impatto così positivo alle partite. Ma guardate, più o meno avevamo finito l'anno scorso con questo tipo di gioco, rispetto all'anno scorso sono cambiati qualche interprete, ma giocavamo con due punte, Icardi e Palacio, con Hernanes e Kovacic, e cambiavano qualche esterno, oggi c'era Dodò, l'anno scorso giocavano altri, però più o meno l'avevamo già provato. Quello che ho detto in settimana, bisogna che, come avete visto oggi, le due mezzali cominciano a fare come hanno fatto, a pressare subito, oltre a essere bravi quando hanno la palla, devono essere bravi a pressare, le due punte uguali. Questo è il calcio che mi piace, bisogna essere tutti aggressivi, andare a prendere alto l'avversario, andare a ritmi come oggi elevatissimi, e questo sarebbe il calcio ideale, speriamo di poter continuare a farlo. Vista la possibilità insomma che avete anche di alternare gli attaccanti, perché oggi è entrato Palacio, ma c'è Osvaldo che ha fatto molto bene, la conferma di Cardi, la crescita di Kovacic, sempre difficile delineare gli obiettivi, ma adesso si può essere un po' più ambiziosi? Il nostro obiettivo è tenere sempre questo atteggiamento in campo, la concentrazione, la determinazione, andare in pressing, come l'organizzazione che ti dà sicurezza, e andare a mille, e cercare di non far giocare gli avversari. E poi quando abbiamo la palla essere veloci, svelti a fare le giocate che sono nel nostro DNA, quindi bisogna continuare così. Insomma, Mazzarri che non mette obiettivi, anche se, viste le difficoltà di Napoli e Fiorentina, un ragionamento su quale possa essere la terza forza del campionato dietro a Juventus e Roma, forse da oggi si può cominciare ad aprire per l'Inter, per il Milan, anche per la Lazio, ha ragione Lotito, questa è una squadra forte. 800-24-0024, traffico. Il calcio è fatto di quella cazzim che è necessario poter andare a, scusate te, ma per dare l'idea ben chiara che senza quello i risultati non si fanno. Tutti convocati. Credo che alla fine sarà un campionato molto più equilibrato e credo che sia anche un bene per il calcio italiano. Già l'ho detto, il favorito è la Juve, non ha perso nessun giocatore, ha preso anche due o tre giocatori di qualità e non dimentico che ci sono ancora altre squadre che hanno lavorato bene durante l'estate. E vedremo. Io spero che sarà un campionato molto disputato e molto bello. Questo è Allegri Garcia ieri sera, poi ripeto i risultati di questo pomeriggio: Inter Sassuolo 7-0, Fiorentina Genoa 0-0, Lazio Cesena 3-0, l'Atalanta che ha vinto a Cagliari 2-1, soprattutto il Napoli che ha perso in casa 1-0 con il Chievo. E io aspetto Benitez al VAR con microfoni di Sky Sport, ve lo faremo sentire. Ieri Benitez ha detto: mercato fantastico, la squadra molto migliorata rispetto all'anno scorso, bisogna stare uniti, la colpa è dei giornalisti che ascoltano quello che viene scritto, le critiche a Milano e Torino e poi i tifosi non capiscono. Oggi i tifosi hanno sepolto di fischi il Napoli, che mi sembra molto simile a quello che l'anno scorso ha perso 23 punti contro le squadre medio-piccole, 11, ho fatto due conti prima in redazione, soltanto allo stadio San Paolo. Oggi Napoli 0, Chievo 1, c'è anche un rigore sbagliato da Higuain, ma c'è una prestazione che, non lo so, Alessandro Vocalelli, ciao, come vogliamo giudicare? Male, malissimo, perché voglio dire, chi ha avuto la pazienza di seguirla, io sono stato tra questi, la partita del Napoli, ho visto una squadra che poi soprattutto dopo aver preso il gol del Chievo è completamente sparita. Insomma, cioè io penso che uno può provarci fino alla fine, crederci, insistere, poi se sei sfortunato, d'accordo il portiere, puoi anche non avere troppi rimpianti, ma oggi il Napoli era veramente una squadra che a un certo punto non aveva più collegamenti, non aveva più quasi quella determinazione che serve in situazioni del genere, una squadra molto molto spenta. Sì, squadra che è difficile oggi pronosticare come terza forza di questo campionato. Diciamo che qualche dubbio c'era già venuto dopo i preliminari di Champions, però uno pensava, vabbè, l'inizio della stagione, può succedere, può capitare. E la partita di oggi veramente ti fa venire dei dubbi, ma ripeto, non per il risultato, perché ci può stare nel campionato di perdere una partita, di sbagliare una partita, ma il modo con cui l'ha persa, una partita veramente in cui il Napoli a un certo punto è uscito dal campo e sembravano 10 giocatori più il portiere, che ognuno cercava di fare una cosa ma senza un minimo di spirito di squadra. Questo mi sembra il fatto più preoccupante, al di là del risultato, che chiaramente è quello che fa più sensazione, ma non è solo il risultato che fa preoccupare di questa partita. Sì, poi c'è chi scrive al 349-238-6666, anzi vi invito a farlo, Benitez non arriva a fine mese, c'è chi dice peggior allenatore mai visto a Napoli in epoca recente, non credo certamente Benitez sia il peggior allenatore visto a Napoli in epoca recente, certo è che mi chiedo cosa starà pensando in questi minuti De Laurentiis, che questa settimana ha provato in tutti i modi a compattare l'ambiente, e credo anche le dichiarazioni di ieri di Benitez fossero in un certo senso le dichiarazioni di un allenatore aziendalista, perché definire fantastico il mercato del Napoli, migliorata questa rosa, io credo faccia un po' a pugni con quello che lo stesso Benitez aveva detto nelle settimane precedenti. Sì, sai, io non voglio definire il peggior allenatore visto a Napoli in tempi recenti, non mi permetterei, però voglio dire, qualcosa bisogna cominciarlo a dire anche su questo allenatore, perché lui è arrivato lo scorso anno e dopo che il Napoli era arrivato secondo con la patente di quello che doveva portare il Napoli allo scudetto. È vero, è stato venduto Cavani, ma con quei soldi, caso più unico che raro, a Mazzarri è stato concesso tutto, praticamente di scegliersi anche gli acquisti, da Higuain, Caleone, Albiol, insomma a farsi la squadra che voleva su misura, e per cui invece i risultati sono stati peggiori. Il Napoli è arrivato terzo quest'anno, poi l'eliminazione dell'Europa League più ancora che della Champions League, dove è stato sfortunato, va bene la vittoria in Coppa Italia, però quest'anno si è ripartito in una maniera così veramente fiacche, non si vede niente della mano dell'allenatore. Tra l'altro, voglio dire, questa è una squadra che continua ad avere degli alti e bassi che a questi livelli non sono accettabili, secondo me. Non puoi sbagliare delle partite, magari farne una bene e poi sbagliarne altre in questo modo. Sì, fa anche impressione. Poi dare un'occhiata alla classifica, l'abbiamo fatto prima, Juventus e Roma 6 punti, se questa sera il Milan non vince a Parma sono già davanti da sole. Tra le delusioni di oggi c'è anche evidentemente la Fiorentina che non è riuscita a battere il Genoa in casa e che ha, credo, evidenti problemi davanti, mancando Pepito Rossi. Gomez oggi non ha giocato bene, a un certo punto si sono trovati con il tridente Bernardeschi Babacar Cuadrado, evidentemente non all'altezza di forse anche del progetto che aveva quest'anno la Fiorentina. Beh sì, insomma, voglio dire, noi della Fiorentina ci aspettiamo sempre quel salto di qualità definitivo che la porti ad essere una squadra protagonista, una squadra sempre potenzialmente protagonista, e però poi è chiaro che l'infortunio di Giuseppe Rossi è pesante. Io Pradè dire prima della partita abbiamo perso probabilmente il giocatore forse più importante del campionato italiano, comunque dei giocatori italiani. Se non è il più importante, comunque lì siamo, insomma, è uno di quelli che ti può risolvere le partite. L'anno scorso, non a caso, la Fiorentina è stata ad altissimi livelli fino a che c'è stato lui. Andato, c'era Giuseppe Rossi. Ti faccio sentire Montella, microfoni di Sky, Montella. L'unica occasione del Genoa abbiamo rischiato grosso, però l'atteggiamento era quello giusto, le idee di gioco erano quelle giuste e la continuità di gioco anche, nonostante ci fossero 30 gradi. Io sono sotto questo punto di vista molto soddisfatto di quanto abbiano fatto i ragazzi oggi. Con la mia ultima domanda è su Mario Gomez. Lei aveva detto gli serve il gol per sbloccarsi, anche oggi il pubblico gli è rimasto molto vicino anche al momento dell'uscita quando l'ha sostituito. Come sta Gomez e perché secondo lei ancora non è al massimo della forma? Come ho detto ieri, ha bisogno di gol, oggi non è arrivato, arriverà la prossima partita, mi auguro. L'importante è che lui abbia il sostegno della squadra, dell'allenatore, noi abbiamo tutti fiducia in lui e ha bisogno probabilmente di questo, ma è anche vero che è un calciatore che morfologicamente è molto grosso e probabilmente avrà bisogno un po' più di tempo rispetto ai compagni. Sì, avrà bisogno Gomez, aveva forse bisogno di qualcosa di diverso la Fiorentina, se davvero sospettava in quelle ultime giornate che l'infortunio di Pepito Rossi fosse un po' più grave del previsto. 800 24 00 24. Prima di salutarti, Alessandro Vocalelli, volevo chiederti invece della Lazio. Io l'ho lanciata come provocazione, dico, aveva ragione Lotito, la Lazio è un'ottima squadra quest'anno, è una squadra che può puntare a una posizione in Europa. Veniva dalla sconfitta di San Siro con il Milan e poi stasera cominceremo a capire che Milan è quest'anno, qual è la sua dimensione. Oggi ha fatto il suo, però gli uomini, quelli importanti, Candreva, Parolo, anche Djordjevic, che oggi ha giocato titolare al posto di Klose, segnano che questa è una rosa profonda, importante, che ha anche qualità. Ma non c'è dubbio, insomma, la Lazio ha fatto sicuramente una buona campagna acquisti, anche perché generalmente si parla di acquisti e cessioni, e bisogna onestamente dire a favore di Lotito che lui non ha fatto neanche una cessione, perché tutti e molti temevano che alla fine vedrai che tra Lulic e Marchetti alla fine qualcuno parte, che Candreva stesso, invece cessioni zero e acquisti sono stati acquisti significativi, perché Parolo, Bazza e lo stesso De Vrij, che abbiamo conosciuto al Mondiale, sono giocatori bravi. La Lazio ha praticamente due squadre, nel momento in cui esce Djordjevic e entra Klose, possono entrare da Mauri a Ledesma, aiutami a dire, un sacco di giocatori, insomma, a centrocampo soprattutto c'ha due squadre, per cui è una signora squadra che soprattutto se ritrova anche la compattezza, come oggi ha ritrovato del suo pubblico, può essere, diciamo, una delle famose mine vaganti del campionato. Poi il resto invece c'è l'Inter che più che mine vaganti mi sembra una squadra che ha molta solidità. Sottolineo così con un pizzico di colore che è stata la giornata di Icardi e Maxi Lopez, insomma, forse no? Sì, 4 gol in 2, vista anche Vandanare in tribuna a San Siro scattare foto ai gol di Icardi, però insomma, questo fa parte poi del gossip. Mi piace il fatto che si siano scoperti tutti e due protagonisti, soprattutto per la loro specialità, che è quella di fare bene i calciatori, di far gol importanti, per cui da questo punto di vista oggi sono andati oltre il gossip, hanno dimostrato nella loro professione di essere gente da prima parte. Sì, magari riuscissimo a parlare solo di questo, soprattutto per quanto riguarda Icardi, anche di Balotelli, stamattina sul Mirror, le 3 ore di sesso con una parrocchiera di Liverpool, poi liquidata in taxi. ci porteremo avanti tante storie come questa, Alessandro. Beh, insomma, il calcio ormai è diventato, beh, insomma, come nella vita, insomma, c'è spesso molto gossip, si parla molto di tante altre cose, per cui di calciatori che poi tornino ad essere protagonisti per il loro mestiere, a me fa molto molto piacere, anche perché comunque uno è stato l'eroe della giornata, nel senso che andare a vincere a Napoli è sicuramente un fatto decisivo per le sorti di un campionato, molto importante, quindi se firmi quel gol sei giustamente protagonista. L'altro, Icardi, effettivamente stiamo parlando di un ragazzo di 21 anni, lo ricordo, cioè noi continuiamo a pensare che Balotelli è giovane, giovane Balotelli, che ce l'ha 24. Sì, fa sorridere che quest'estate l'Inter abbia cercato un altro attaccante sul mercato, perché a un certo punto l'ha cercato. Eh sì, e quello francamente, a meno che non c'era qualche dubbio appunto sul suo carattere, diciamo così, sulla sua esuberanza, non ha veramente senso. Io credo che tra i giovani attaccanti, e Icardi è veramente un giovane, perché noi ormai ci ostiniamo a considerare giovane nel calcio, c'ha 24-25 anni, Icardi c'ha 21 anni, c'ha già 3 campionati di Serie A sulle spalle, ha sempre segnato, ha fatto gol e ha delle potenzialità notevoli, per cui credo che il centravanti, l'Inter, se vuole, ce l'ha per i prossimi 10 anni ed è un signor centravanti. Grazie Alessandro. A voi, buona giornata, buona serata. Grazie Alessandro Vocalelli. 800 24 00 24, manca ancora Benitez all'appello delle voci, mancano anche altri allenatori di questo pomeriggio, poi torneremo a San Siro, poi parleremo della Liga, parleremo di Valentino Rossi, poi arriverà anche Pierluigi Pardo, eh. Tutti convocati. Solo continuare a fare lo stesso. Ilaria. E questo è un po' quello che dicevamo anche prima questo del suo arrivo, Benitez. Adesso c'è Benitez che sta parlando ai microfoni di Sky, 800 24 00 24. Credo sia il caso di aprirlo, un processo al Napoli, soprattutto dopo le parole di ieri di Benitez. Io le ricordo, mercato fantastico, la società ha fatto tutto quello che doveva fare, questa rosa è molto migliorata rispetto all'anno scorso, sono andati via soltanto panchinari, bisogna restare compatti, guai ad ascoltare le critiche che vengono dal nord, pronti via, lo ricordo, Napoli 0, Chievo 1, Napoli lì 3 punti, non ci fosse stato gol di De Guzman al 94esimo nella prima giornata Marassi contro il Genoa, il Napoli sarebbe in tutt'altra posizione. Vediamo se riusciamo a cogliere ancora Benitez ai microfoni di Sky. Credo che per 20 minuti il secondo tempo no, per 20 minuti, 25 minuti la squadra sapeva che cosa doveva fare e continuava a fare l'attacco, a gestire la palla bene e arrivare al limite dell'area. Ha mancato dopo gli ultimi 20 minuti, che un po' sempre la sensazione che quando la squadra alla fine non può reagire sembra che non ha fatto nulla al secondo tempo, ma veramente abbiamo fatto 20 minuti del secondo tempo che la squadra ancora poteva pareggiare e poteva farlo bene. Sì, non è un bel segnale quando un allenatore dopo una partita così comunque trova aspetti positivi in una squadra. Secondo me il Napoli oggi di aspetti positivi ne ha avuti pochissimi, a differenza ad esempio dell'Inter. Torniamo a San Siro, Dario Ricci, ciao Dario. Eccoci ritrovati Giovanni con Andrea Sorrentino, amico collega inviato della Repubblica. Beh Andrea, tante cose positive nella metà campo interista, forse una su tutte la cattiveria di quest'Inter, perché a un certo punto partita finita si poteva traccheggiare, fare accademia, invece l'Inter ha continuato fino al 7-0 che è il visto dell'anno scorso, no? Esatto, buonasera a tutti. L'Inter è chiaramente perfetta contro un avversario assolutamente imperfetto, perché poi c'è anche l'avversario in campo e dobbiamo dire che il Sassuolo stasera è stato imbarazzante, soprattutto nella fase di copertura degli spazi alle spalle del centrocampo. Infatti tutti i gol sono arrivati poi da quella zona centrale davanti alla difesa. Però è stata un Inter molto positiva, un Inter che si sta ricostruendo e nella quale, al di là dei gol che celebreremo, di Icardi che ha segnato una tripletta, per carità, di Osvaldo, di Kovacic e di Guarin, secondo me abbiamo cominciato a conoscere questo giocatore Gary Medel, che secondo me è uno degli acquisti più importanti di questa stagione nel campionato italiano, perché era il giocatore di cui l'Inter aveva bisogno, perché uno dei suoi principali difetti era la mancanza di energia a centrocampo, e Medel la porta anche nitidezza nel tocco, porta recuperi di palla, porta energia, porta intensità, e per l'Inter è un giocatore fondamentale e secondo me di questo passo diventerà uno dei migliori della Serie A. Dario, io volevo capire da te, da Andrea, siccome abbiamo sentito prima Mazzari parlare del insomma del mitologico equilibrio che comunque deve avere la squadra, oggi forse col Sassuolo è stato anche semplice, però provare a rischiare le due punte, più Kovacic, più Hernanes. Mi piacerebbe capire, voi che conoscete bene poi la realtà dell'Inter, lunedì a Palermo, Palermo-Inter, che cosa vi aspettate nelle scelte di Mazzarri? Cioè, se davvero quest'Inter che ha messo oggi e che ha risposto bene con 7 gol, poi c'è da fare la tara sulla prestazione del Sassuolo, è davvero l'Inter che Mazzarri ha in testa? Adesso secondo me oggi Mazzarri ha un po' giocato su questo 7-0, spacciando questa come l'Inter che ha in testa. Certo, vedere tutti quei bei giocatori, Andrea in campo, quelle punte, quelle due mezzali che rispondono al nome di Hernanes e Kovacic, fa brillare gli occhi. Ma pensi che a Palermo, girandoti la domanda di Giovanni Capuano da studio, vedremo quest'Inter così pazza, riprendendo l'inno che finalmente è ritornato a risuonare a San Siro, e spericolata? Io credo che Mazzarri insisterà per un po' su questo assetto, anche se secondo me, vedendo anche la partita di oggi e quelle precedenti, uno di quelli che potrebbe rischiare qualcosa in futuro è proprio Hernanes, che qui non riesce molto di dare quel qualcosa in più che si attende Mazzarri, soprattutto nella fase propositiva dell'azione. Quindi Hernanes è uno di quelli che potrebbe alla lunga rischiare il posto in favore magari di un Vilà nelle partite in cui l'Inter vorrà coprirsi di più. E secondo me poi il punto d'arrivo tattico di Mazzarri sarà un 3-4-2-1, modello Napoli, appunto il suo Napoli, con Palacio e Kovacic magari dietro una punta e con un centrocampo a 4 in cui Medel e Vilà potrebbero fare i due intermedi. Quindi è un Inter in evoluzione, ma Mazzarri ha parecchie alternative. Infatti, sì, magari rispetto all'anno scorso, adesso le prove del 9 si chiamano Europa League e poi lunedì Palermo. Sì, poi soprattutto Palermo, c'è chi scrive da casa anche Inter devastante davanti, dietro però non sembra ancora perfetta, oggi c'è stata effettivamente qualche lieve imperfezione dietro, c'è anche chi scrive Andreoli più forte di Juan Jesus, poi Medel non atteso così forte anche dal punto di vista tecnico. No, però mi interessava capire da Andrea, che invece conosce Benitez per il periodo che Benitez ha passato a Milano, se lo stupisce quello che sta accadendo a Napoli, e non parlo solo della partita di oggi, parlo delle vacanze di questa settimana, parlo degli sfoghi ieri in conferenza stampa, parlo di un po' di mal di pancia sul mercato, insomma di una situazione a Napoli che a me ricorda abbastanza da vicino anche quello che è successo a Milano con Benitez. Ecco Andrea, quello che sta succedendo con Benitez a Napoli richiama un po' quello che si era visto a Milano in casa Inter, con quel mal di pancia che poi sfociò in una clamorosa rottura. Pensi che anche in questo caso si possa arrivare a quell'epilogo? Io vedo la situazione molto delicata e molto precaria, al di là della sconfitta di oggi del Napoli, che abbiamo visto sì dall'immagine maturata in circostanze un po' particolari, perché la squadra mi sembrava aver dato il massimo, però mi sembrano quei rapporti destinati a concludersi. Già il fatto che l'allenatore parta, se ne vada in vacanza nel piano della stagione, è stranissimo e secondo me annuncia qualcosa che arriverà in futuro. Sì, immagino oggi Mazzarri tutt'altro che triste, insomma, pensando a che cosa è successo a Napoli, anche per le frecciate che ieri Benitez gli ha riservato. Grazie Dario. Grazie a voi. Grazie Dario Ricci, grazie ad Andrea Sorrentino di Repubblica. 800 24 00 24, sta per parlare Pioli. Io vi ricordo i risultati di oggi: Inter Sassuolo 7-0, Fiorentina Genoa 0-0, Lazio Cesena 3-0, Cagliari Atalanta 1-2, Napoli Chievo 0-1, poi Sampdoria Torino 2-0, manca ancora Parma Milan questa sera alle 20:45, manca domani sera Verona Palermo. Vi dico che sta vincendo il Manchester United, 2-0, e ha segnato il primo gol con la maglia dei Red Devils di Maria, quanto mai rimpianto anche ieri sera dai tifosi del Real Madrid. Traffico. Qui stiamo facendo, mi sembra di stare sotto da Peppino, capisce il senso? Tutti convocati. Juan Fran la pone, Raúl García, amaga chutar, gol. ¿Ves? Lo hemos dicho. Gol. Gol. Que jugaba del Atlético de Madrid. Yo creo que en este momento estamos pagando los pequeños errores que estamos haciendo. Esto es el fútbol, es normal. Hay momentos en el fútbol que que la cosa no te salen bien, que tú pagas todos los pequeños errores, ¿no? Es claro que tenemos que cambiar. Pitos por partición al portero, al guardameta, al capitán Iker Casillas, por parte del público del Santiago Bernabéu. Bueno, yo por acaso no he escuchado, pero si ha pasado, la fisio tiene siempre razón. A proposito di allenatori che se la passano un po' così, abbiamo detto di Benitez, 800240024, ma c'è anche Carletto Ancelotti, Filippo Maria Ricci, corrispondente della Gazzetta dello Sport dalla Spagna. Ciao Filippo. Buon pomeriggio. Traballa, ovviamente è ancora molto presto. Intanto abbiamo già subito un altro esamino sulla carta semplice martedì sera col Basilea. Vediamo però la reazione del Bernabeu dopo la sconfitta. C'è il problema del portiere, che ormai è un bubone assolutamente scoppiato. Ieri Carlo è stato bravo, ha fatto degli equilibrismi per evitare di prendersela con un pubblico che io potrei definire tra l'isterico e l'inconcepibile, perché insomma ieri hanno preso il primo gol. Va bene, Casillas non si è mosso granché dalla sua linea, però, sì, insomma, però non è l'unico che è rimasto fermo. Esatto. E al minuto 15 del primo tempo l'hanno ammazzato di fischi, e non si fa così col portiere, insomma, a parte che poi è un portiere mito, cioè per 15 anni gli ha fatto vincere questo e quell'altro a Real Madrid e alla Spagna, di cui poi molti madridisti sono anche tifosi, per cui non si tratta così un portiere. E ieri Carlo ha detto no, non ho sentito niente, ero concentrato sulla partita. Sì, anche Pepe ha detto non ho sentito niente, però sì, se hanno fischiato, esatto, avevano le loro ragioni. Esatto, ha parlato anche Casillas, ha detto no, però vabbè, comunque il problema, sì, gli hanno fatto il conto, oggi leggevo sulla stampa 5 gol subiti negli ultimi 7 tiri che hanno rivolto, sì, verso la sua, sì, porta. Vabbè, in generale sì, non è che è sempre colpa sua. Il problema vero è che Real Madrid è in difesa, prende dei gol, cioè ogni calcio d'angolo è quasi un rigore, insomma, rischia di prendere gol, cioè, tutte le palle alte, con tutto che hanno Pepe e Sergio Ramos, così. Però il vero grande problema è la perdita dell'equilibrio. Questa squadra, Carlo, ha fatto un lavoro eccezionale, l'aveva sistemata, dopo un inizio complicato con Ciabi Alonso e Di Maria era riuscito a trovare la quadratura del cerchio, 2 su 3 di quel centrocampo li ha venduti, appunto Ciabi Alonso e Di Maria, e adesso bisogna ricominciare. Il problema è che si ricomincia da cosa? Lui dopo la sconfitta a Banoeta con la Real Sociedad, vincono 2-0, ha perso 4-2, una partita assurda, ha detto qualcosa deve cambiare e qualcosa cambierà. La sua idea era quella di cambiare con Khedira, e Khedira si è rotto, perché è l'unico giocatore difensivo che ha. Poi gli rimane questo Yerramendi, questo poveretto, questo basco pagato 40 milioni di euro, che la scorsa settimana si è fatto fotografare mentre cavalcava un pony alla festa di paese, cioè è un ragazzo ormai completamente perso, rivedibile non sa cosa fare, quindi dopo che già si era fatto pizzicare in un video quando faceva, vestito da Batman, faceva la corrida con la sbacchia, come dicono qua, con le mucchette, che facessero un po' di scouting quelli del Real Madrid, probabilmente qualche sondino lo risparmierebbero. Esatto, perché poi tutto questo nasce perché poi è dovuto venire sto James, e va bene, il colombiano è forte, poveretto, anche ieri si è impegnato, ma qui non difende nessuno, perché sai, il gallese Gareth Bale ormai non è più, cioè proprio non è più disponibile a correre, no, nato terzino, ormai lui dice le mie corse le ho fatte, e quindi questo non difende. Ronaldo fa il suo, però ieri sera, cioè, offensivamente è stato un portento, ma non è che. E poi Kroos non è Xabi Alonso, Modric è un'altra mezza punta. E qui, Barcellona è 6 punti sopra, grande giubilo della stampa catalana questa mattina. Ho letto il numero, una statistica, ma il Real Madrid ha vinto la Liga partendo con l'handicap di 2 sconfitte nelle prime 3 partite, soltanto 3 volte nella storia è riuscito a una squadra spagnola, l'ultima proprio il Barcellona, ma stiamo parlando di altre epoche, 41 anni fa, 30-40 anni anni fa. A me continua a impressionare l'Atletico Madrid, uno si aspetta un minimo di rilassamento dopo la Liga vinta, fame in meno, e invece mi sembra che ieri l'Atletico Madrid abbia dato un segnale chiaro. E poi, cioè, a attenzione, dopo aver sbagliato la formazione, perché il Ciolo ieri ha sbagliato, cioè ha buttato via il primo tempo ed è stato fortunato a non essere sotterrato nel primo tempo. Però questa, l'idea di far giocare questo Raul Jiménez, questo messicano un po' sconosciuto, ha costretto, ha storto tutta la squadra, però è riuscito a correggerla nonostante poi Simeone non fosse in panchina e l'entrata di Griezmann e Arturan ha completamente cambiato la partita. E occhio anche a Cerci può essere utile a questa squadra, io lo spero, insomma, da italiano, ma comunque è una squadra che se torna a essere un minimo creativa, con la fame che ha, con l'intensità che ha, è eccezionale. Però ti dico, occhio al Barça, il Barça a me mi sta piacendo tantissimo, Sì, diverso, molto scorso. Diverso da quello degli ultimi anni, cominciando anche a funzionare la convivenza, mi sembra, tra Messi e Neymar. Se poi Messi si occupa solo del Barcellona per qualche mese, senza andare in giro per il mondo con la nazionale argentina, come ha dichiarato di voler fare, effettivamente qualcosa può cambiare negli equilibri in Spagna. Grazie Filippo. A voi, ciao, alla prossima. Ciao, un abbraccio, ciao. Filippo Maria Ricci da Madrid. Vediamo se riusciamo a prendere le ultime parole di Pioli su Sky dall'Olimpico. No, è finito. 800 24 00 24, Simone da Verona. Buonasera, sono Simone da Verona. Volevo fare un piccolo commento su Napoli, Chievo e su Rafa Benitez. Sì. Permettendo che tifo entrambe le squadre, sia Elis che Chievo, quindi non sono di parte. Ho notato però nel progetto del presidente De Laurentiis del Napoli un forte stravolgimento, perché è vero, ha cambiato l'allenatore, però mi sembra che anche i giocatori, meno male, tra quest'anno e l'anno scorso la formazione sia stata completamente stravolta rispetto a quella che era, diciamo, Napoli di Mazzarri. Quindi, cioè, dal mio punto di vista, il progetto, invece di prevedere un'evoluzione, un miglioramento per gradi, alla fine si è avuto quasi uno stravolgimento totale. Quindi Napoli, per assurdo, pur avendo dei giocatori anche forti come lo stesso Higuain, Martens o Callejon, si trova, diciamo, in un punto più indietro di quanto non è riuscito ad arrivare Napoli di Mazzarri, che aveva comunque costruito per piccoli passi un risultato migliore, più elevato. Sì, Simone, secondo me il problema non è tanto in quello che è stato fatto l'anno scorso, compresa la cessione di Cavani, che a quei soldi doveva andare via perché qualunque club l'avrebbe venduto e poi quei soldi sono stati reinvestiti. Il problema è che cosa è stato fatto quest'anno. Il problema, secondo me, è quello di una piazza in cui c'è un allenatore evidentemente deluso dal mercato del suo club, e che è in scadenza di contratto e che non so se abbia ancora in testa un progetto per questo Napoli. Ma abbiamo al tempo ancora un'ora per parlarne, fino alle 19. 800 24 00 24, Bet Corner. Quote e pronostici. Posticipo di lusso questa sera per la seconda giornata di Serie A, con Parma e Milan in campo al Tardini alle ore 20:45. I padroni di casa cercano il pronto riscatto dopo il KO di Cesena e la loro vittoria, l'1 è quotata da SNAI 2,90, l'X invece è a 3,30, il 2 è quotato 2,40, con i rossoneri dunque leggermente favoriti nella sfida all'ex Cassano. Occhio anche alle quote del gol, quotato 1,70, e del no gol, quotato 2,05. È possibile anche indovinare per questa partita il nome del primo marcatore. Nel Parma spiccano i nomi di Belfodil e Paladino, quotati 8, Cassano invece, l'ex, è quotato 7. Nel Milan occhio alla quota di Torres, che esordisce proprio questa sera, quotato 5 come primo marcatore rossonero. Pazzini è quotato 8, Onda 10. Un occhio anche alle sfide estere di questa sera. In Spagna alle 21 c'è Granada Villarreal, l'1 è quotato 3,50, l'X è a 3,20, il 2 con il successo degli ospiti è quotato 2,15. Questa era l'ultima delle quote SNAI di oggi, noi ci risentiamo domani. Tutti convocati. Sbiriguda, supercazzola prematurata? No, dico prematurata la supercazzola. Non capisco. Con scappellamento a destra. Ah, le appelle, e le son là, guardi, a destra, là. E fino a prova contraria, delusi o non delusi, a noi dei tifosi ce ne può fregare e non fregare, perché fino a prova contraria, a fine anno, abbiamo sempre avuto degli ottimi risultati. Se non abbiamo i tifosi con noi, perdiamo un 20%. Un 20% del rendimento di questa squadra. Per puntare allo scudetto sono i tifosi e anche voi, giornalisti. Se uno dice qualcosa, qualcuno che lavora a Torino o lavora a Milano e dice qualcosa, e facciamo come Brian di Nazareth, che prende il sandalo seguite, e voi seguite, e qualche tifoso che non ha capito segue questa strada, si crea un po' di casino, alla fine il Napoli perde energia. Che tutti dobbiamo dare il salto di qualità, e tutti, dico, voi giornalisti che siete qua, tifosi e noi, perché possiamo parlare, sembra che abbiamo paura di dire scudetto, non abbiamo nessuna paura, ci siamo tutti insieme. Ho lasciato l'altro giorno il messaggio molto chiaro, spalla a spalla, tutti insieme per andare avanti. Oh, carissimo Pierluigi Pardo, ciao! Ciao, come va? Oggi inauguriamo questa bellissima rubrica, quella della Supercazzola, che io lo dico, ci porteremo avanti per tutto l'inverno, tutte le domeniche, dalle 17 alle 19. Beh, Supercazzola d'autore, perché qui davvero un capolavoro quello di questa settimana napoletana. Non so se hai sentito Benitez ieri, non so se hai sentito Benitez oggi. Io la definisco una Supercazzola, tu? Ma allora, il discorso che abbiamo appena sentito secondo me è giusto nella parte legata ai tifosi, nel senso che i tifosi possano incidere per un 20%, soprattutto in alcune città come Napoli, dove l'amore per la maglia e per la squadra è veramente pazzesco, e quindi può rappresentare, fuori da qualsiasi retorica, e chi c'è stato lo sa, un valore aggiunto enorme. Quindi i tifosi sono protagonisti, scendono in campo anche loro. I giornalisti è un po' diverso, Sì, no, ma oggi il Napoli ha perso certamente per colpa dei giornalisti di Milano e Torino, del sandalo di Brian di Nazareth, di tutto quello che ha detto ieri, perché Benizia aveva anche detto mercato fantastico, squadra più forte dell'anno scorso, 8-0-0-24-0-0-24. Io le voglio sapere dai miei amici napoletani che cosa ne pensano oggi, visto che ieri si erano compattati tutti, Pier, dietro le parole di Benitez. Poi chiaramente la partita di oggi è stata anche una partita sfortunata, ma nella sfortuna, cioè, il Napoli poteva anche vincere questa partita. Sì, settimane fa non vincere a Genova, come poteva mille cose. Sicuramente ci sono delle tendenze nel campionato, la sensazione che ci siano squadre in fase di decollo, o comunque che hanno fatto un mercato di crescita, come l'Inter, come la Lazio, direi, come il Milan, che stasera ha atteso una grande prova, e squadre come Fiorentina e Napoli che, insomma, forse dovevano fare qualcosa in più. Questa è la sensazione. Poi il campionato è lunghissimo, mancano 36 giornate, la base del Napoli è buona, non è stata smantellata, quindi adesso anche improvvisamente è diventata una squadra alla metà classifica, però la sensazione è che tipo, ma ce l'avevamo anche prima, insomma. Non è sì, però secondo me c'è un errore quando tu dici va bene compattare l'ambiente, però quando tu dici questa squadra è più forte dell'anno scorso, sono andati via soltanto Panchinari e Benitez ieri, poi le settimane prima aveva detto cose completamente diverse, e secondo me poi compi un errore. Oggi il Napoli è uscito subissato di fischi dal San Paolo, e secondo me giustamente, perché se tu devi essere una squadra che deve star lì nelle prime tre, non puoi ricadere pronti via negli errori dell'anno scorso. L'anno scorso il Napoli è una squadra che ha perso 23 punti, Pier, te lo ricordo, ma piccole, sì, lo sai, sì, certamente, con le medio piccole ne ha perse 11 in casa, pronti via, ricominciato da dove aveva finito. No, ma poi oggi e la colpa è dell'allenatore, cioè di chi è la colpa? Non è mia, non è tua, forse colpa, non è neanche dal club. La colpa, insomma, io penso che il mercato poteva essere diverso. Io credo che il Napoli abbia fatto un mercato di attesa, aspettando una qualificazione Champions League che poi non è mai arrivata. Chiaramente manca la controprova, e anche qui c'è l'elemento sfiga, perché poi se il Napoli avesse beccato magari lo Standard Liegi invece che l'Atletico Bilbao, probabilmente passava il turno. Però comunque sia, questo non giustifica, nel senso che non si è arrivati bene all'appuntamento col preliminare in Champions League, poi il Napoli è uscito dalla Champions e non è riuscito a fare, a parte Lopez De Guzman, che già praticamente era arrivato, altri grandi colpi, ha cominciato il campionato e l'ha cominciato in un ambiente complicato, insomma, anche la famosa settimana di vacanza al Liverpool di Benitez, per carità, tutto normale, cioè, o meglio, no, non tutto normale, tutto si può, quando le cose funzionano va sempre tutto bene, e anzi, anche non è che se ti alleni di più necessariamente vai meglio, no? Ci sono anche delle situazioni in cui devi concedere ai giocatori, o addirittura in questo caso all'allenatore, tempo per pensare e tempo per staccare la spina. però insomma poi è chiaro che dopo questo risultato sì, poi c'è il risultato del campo, no? E su quello poi si basa giustamente secondo me anche il giudizio. 800 24 00 24, che ti dicono dalla mattina alla sera il lavoro, l'importanza del lavoro, quindi poi quando i risultati non arrivano e si logisma con l'avversario che non si è lavorato bene. Sì, assolutamente. Alessandro dalla provincia di Milano. Alessandro, pronto? Prego. Buonasera Pierluigi e buonasera Giovanni, complimenti per la trasmissione. Grazie. Vi seguo da tantissimo tempo. Volevo fare una considerazione sulla nuova Juve di Allegri. Il nuovo mister secondo me è stato un po' troppo bisfrattato, senza vederlo all'opera in queste prime giornate, e soprattutto secondo me sta allenando anche una squadra più completa di quella che aveva Antonio Conte, e senza dare dei giudizi eccessivi come hanno fatto gran parte dei miei colleghi juventini, bisogna solamente farlo lavorare e vedere dove ci porterà, soprattutto in Champions League, visto sì. che in campionato per riconfermarsi deve arrivare solamente primo. Sì, io credo che il grande dubbio, Pier, su Allegri fosse se sarebbe stato capace di far giocare la Juve con la stessa intensità cui giocava con Conte. Fin qui la risposta è positiva. Sì, fare meglio di Conte in Italia è impossibile, perché cioè, o meglio, è possibile. Sì, bisogna fare 103 fare punti. 102, esatto. Quindi e alla fine non credo che sia questo l'obiettivo. Se Allegri vincesse il campionato con un punto di vantaggio all'ultima giornata, sarebbe comunque un capolavoro, perché vincerlo per il quarto anno consecutivo sarebbe una grande dimostrazione di qualità. Ma io mi ricordo, ero all'indomani della, poi ci siamo sentiti anche in privato, insomma ne abbiamo parlato in radio in quei giorni, all'indomani di quella decisione lì. Io confermo quello che ho detto: Allegri è un buon allenatore, un ottimo allenatore, è l'unico dei 20 allenatori della Serie A ad aver vinto il campionato, lo dicevo il 16 luglio e lo dico oggi. Poi chiaramente le incognite sulla Juve ci sono, e queste prime due partite non le hanno fugate completamente, senza che la stagione è lunghissima, e sono incognite dovute alla tenuta fisica e psicologica di una squadra che in questi anni ha speso tantissimo. Sì, tra l'altro arriva adesso l'impegno della Champions e si vedrà anche che tipo di impatto potrà avere, se avrà un impatto o anche se Allegri sarà capace di avere un impatto diverso, perché in questi due anni Conte ha avuto un approccio disastroso alla Champions, così va definito, i due gironi, il secondo soprattutto, compromessi soprattutto da come aveva iniziato la Juventus, che martedì gioca col Malmo, gara già importante se non fondamentale. C'è chi scrive da Prato: Paolo, a me sembra evidente che la squadra, il Napoli, non segue più Benitez, è una fotocopia di quello che è successo all'Inter. Sono in tanti che fanno questo parallelismo, Pier. Tutti convocati. 800 24 00 24, carissimo Pierluigi Pardo, ti riporto anche le parole di Lotito, presidente della Lazio, a Sport Mediaset, a proposito delle polemiche di questi giorni. Io parlo con Agnelli, che è proprietario come me di una squadra. Marotta è un dirigente, non mi sembra che abbia portato delle novità. Marotta, che ha avuto parole di critica nei confronti di Lotito, delle sue presenze a fianco della nazionale, Lotito gli risponde: io parlo con Agnelli, che è un proprietario come me, lui è un dirigente. E tra l'altro, nemmeno, da quello che pare di capire tra le righe insomma delle parole di Lotito, nemmeno troppo illuminato, nemmeno troppo riformatore. 800 24 00 24, si attendono risposte da Torino. Marcello da Roma. Marcello, salve, mi scusi, avevo sentito Prego. Il commento del suo ospite sul Napoli, sì. E concordo pienamente, e penso che praticamente la squadra stia ripetendo gli stessi errori dell'anno scorso e che questo non aiuti il gruppo, perché appena abbiamo già perso l'obiettivo di Champions, sicuramente non ci sarà l'obiettivo di Scudetto, perché non è una squadra che può lottare per lo Scudetto, perché scende in campo non convinta, non è cattiva, è poco concentrata, soprattutto in difesa. Chiaramente il gruppo si disgregherà e il primo a farne le spese sarà Benitez con il suo... Sì, ma a me pare che già Benitez per primo sia un po' poco convinto, abbia un po' perso la rotta, che ripeto l'anno scorso invece c'era, ed era la rotta di un progetto in costruzione, Pier, mentre quest'anno non si capisce esattamente che cosa sia il Napoli. La sensazione c'è, insomma, questi scricchioli anche dal rapporto con De Laurentiis ci sono evidenti. Poi è difficile dire se sono scricchioli dovuti a un desiderio di Benitez, insomma anche gli allenatori hanno i loro periodi di forma, oppure se c'entra anche il mercato. mentre intanto qui stiamo, buongiorno, sono Pardo di Mediaset, facciamo Radio Verità. Sì, tu sei a Parma, lo diciamo a quelli che ci ascoltano. È tutta verità, è tutta verità. Allora, dove la mettiamo la macchina? A fianco una Volvo. Abbiamo fatto pubblicità, no? Involontariamente, però a fianco una Volvo, ecco. Quindi perteggiamoci, no, tornando al discorso sul Napoli. Sì, i segnali sono negativi, eppure è vero. Comunque quello che è successo all'inizio della stagione è una cosa molto pesante, nel senso che uscire dalla Champions League insomma non è un dettaglio. Sì, è condizionante per tanti motivi, non soltanto quello economico, anche, anche quello della convinzione di tutto l'ambiente. Che ti toglie veramente un pezzo di stagione enorme. Insomma, è un lutto da elaborare e non mi sembra che la squadra lo stia facendo. A Genova era riuscita a vincere comunque la partita, lottando, soffrendo col gol all'ultimo minuto, senza giocare un calcio straordinario, ma comunque dando un segnale di crescita rispetto alla terribile notte di Bilbao. Adesso la partita di oggi dimostra che ci sono dei limiti. Io penso che il Napoli abbia un bel futuro davanti. Io penso che abbia la possibilità di star bene, sicuramente in prospettiva, che a gennaio debba tornare sul mercato. Questo da un anno e mezzo, anche intervenendo alla Radio di Napoli, cioè secondo me sì, dovrà tornare sul mercato, però Pier, se avrà una stagione davanti che ha ancora l'obiettivo più importante, che è quello del terzo posto, perché altrimenti secondo me anche in maniera legittima De Laurentiis qualche riflessione dovrà farla. Tra l'altro c'è sempre quel contratto lì di Benitez che scade a giugno, e io credo non sarà prestissimo la risposta alle domande che ci facciamo. C'è Stefano Ragno che intanto saluto, ciao Stefano. Ciao, buona giornata a tutti. Perché poi parliamo anche del Milan, riusciamo a prendere però Francesco D'Avellino? Francesco? Sì. Abbassa la radio però, mi raccomando, sì, prego. Sì. Ok, no niente, devo fare la trasmissione, complimenti per la trasmissione e vorrei salutare il signor Pardo che rende le trasmissioni sportive, soprattutto quelle calcistiche, a volte non noiose, con la sua presenza. Quindi voglio fare i complimenti al signor. L'abbiamo preso per questo, grazie, prego Francesco. Esatto. No, noi siamo pesanti, abbiamo preso lui che così ci aiuta. La traduzione in romano, perché è... Sì. Perché a volte le trasmissioni arrivano ad una noiosità incredibile, per cui credo che il suo Pardo abbia questo merito di renderle un pochino più felici. Sei leggero, Pier, sei leggero. Sì, non dal punto di vista del peso, ma dal punto di vista caratteriale sono abbastanza leggero. Poi ho anch'io i miei fantasmi, i miei demoni, come tutti noi al mondo, però insomma nella scala nazionale adesso mi autopsicanalizzo, sono un po' abbastanza leggero. Dai, prego. Francesco, prego. No, niente, su Napoli, vengo adesso dallo stadio, un po' deluso, però voglio dire, purtroppo questo è il Napoli. A questo punto qua, scegliere e togliere Benitez per prendere chi eventualmente? Veniamo da un decennio di sconfitte, finalmente con De Laurentiis abbiamo raggiunto qualche cosa. L'unica cosa che contesto De Laurentiis è nel dire siamo da scudetto, solo questo, poi del resto mi va bene pure così in effetti. Sì, insomma, possiamo anche chiederlo a Stefano Eragno, ad esempio, ma anche provando a buttarci là con quello che succede questa sera con il Milan, cioè se il Napoli è questo, secondo me ci sono altre squadre, l'Inter sicuramente, ma forse anche il Milan, che possono provare a riprogrammarla questa stagione. Stefano, che impressione ti ha fatto il Napoli, cosa ti aspetti dal Milan? Il Napoli l'ho visto contro l'Atletico, devo dire è uscita dai due confronti meritatamente, anche perché comunque inizio stagione è sempre difficile poter mettere in pista una squadra in condizione. Purtroppo ha trovato l'Atletico che era molto organizzato e in quel momento stava meglio. È normale che nella classifica, tolto la Juventus che è già una squadra talmente collaudata, la Roma che comunque ha fatto bene e pur con un pizzico di fortuna, anche se non sta tanto bene adesso, sta ottenendo il massimo da quello che sta facendo. Secondo me sono queste due, poi Milan, Inter, lo stesso Napoli, la Fiorentina se dovesse comunque recuperare i pezzi migliori, soprattutto Gomez che quest'oggi l'ho visto un po' sottotono, però è quello che potrebbe dare qualcosa in più. Secondo me queste squadre potrebbero tutte quante ambire al terzo posto. Poi, ho detto, il calcio ci vuole anche un pizzico di fortuna che i giocatori più importanti non si facciano male, ecco. Non so da chi partire dei due, forse da te Pier, che cosa ti aspetti dal Milan stasera? Sì, la Lazio è ottima squadra, l'abbiamo detto. Affari spenti, però Secondo me ha fatto una grande campagna acquisti e se dietro, dove ci sono le incognite, perché insomma Gentiletti oggi l'abbiamo visto, insomma De Vrij, Brassaid, questi giocatori nuovi, se questi vanno bene, la Lazio secondo me è una squadra quasi di altissima classifica. Sì, oggi cosa c'erano? 30.000 persone all'Olimpico? Io credo che in un certo senso anche i tifosi della Lazio dovranno in qualche modo fare pace con Lotito, perché quest'estate le promesse le ha mantenute sulla squadra che era da rinforzare, sulla possibilità di lottare per qualcosa che fosse magari anche un traguardo europeo. Parto da te, Pier, mi dici cosa ti aspetti dal Milan questa sera? Sono molto curioso perché questa delle sette sorelle, chiamandole così, era la partita sulla carta più difficile da prevedere. Poi per carità, Napoli e Fiorentina hanno steccato, però questa è una partita dove non è scritta la vittoria del Milan. È una partita complicata, nel Parma torna Cassano che sta meglio e l'anno scorso ha fatto molto male al Milan. Insomma, è una partita che se il Milan dovesse centrare, secondo me ci sarebbe una notizia, cioè, al di là del fatto che dal 2006 che non vince le prime due gare di campionato e quindi anche statisticamente sarebbe abbastanza indicativo, ma insomma sarebbe un bel segnale, a parte che andrebbe in testa la classifica con Juve e Roma e quindi insomma anche dal punto di vista grafico, no? Dal punto di vista psicologico, dopo due giornate avrebbe dato un segnale molto forte. Poi non dimentichiamoci che sabato c'è Milan-Juve. Però ecco, stasera è una di quelle situazioni dove il pronostico è piuttosto complicato. Sì, io penso che il Milan possa farcela, però non è una partita sicuramente che si porta da casa. Pensavo che il Napoli non avrebbe avuto problemi e la Fiorentina non avrebbe avuto problemi, invece lì le difficoltà ci sono state. Sì, poi c'è la prima del Ligno Torres. Stefano, secondo te cosa può dare al Milan Torres? Secondo me tanto, anche perché è un giocatore negli ultimi anni devo dire che non ha fatto impazzire, anche perché secondo me è un diesel, fisicamente è un uomo che deve giocare con continuità, deve sentire la fiducia e penso che nel gruppo Milan con questo allenatore che comunque sa capire e soprattutto perché comunque può anche dare qualche indicazione, visto che occupa lo stesso ruolo che era quello di Inzaghi, devo dire che può dare tanto, anche perché tolto Pazzini, questo Milan è l'unico che può fare il centravanti di ruolo e quando lo fa è in condizione, lo fa anche molto bene. Sì, forse come numero di gol Pazzini poteva garantire qualcosa di più, credo Pier che Torres risponda meglio, ma Inzaghi l'ha spiegato questa settimana, a quelle che sono le idee di Milan che Inzaghi è in testa. Grazie Stefano. Grazie a voi, buona giornata a tutti. Grazie a Stefano Eragno. Ci sono Serafino da Genova, Antonio da Napoli che si sono già prenotati, 800 24 00 24. Un paio di minuti e torniamo. È lo spirito del DNA Milan, se no insomma non avremmo vinto tutti questi trofei in questi anni. Adesso c'è una buona base, però insomma non montiamoci la testa, il percorso è ancora molto molto lungo. Insomma, quando sento dire che della Juve o di queste squadre, insomma, loro hanno certezze, noi siamo in fase di costruzione, però le fondamenta sembrano essere buone. Tutti convocati. Io non mi ricordo fino a una settimana prima del campionato quello che si diceva del Milan in virtù di quello che era stato tutto il precampionato, quindi adesso si fa in fretta a parlare di trasformazioni. È sicuramente una squadra che ha interpretato una partita contro la Lazio in un modo importante. Sì, io mi sto intanto appassionando, carissimo Pier, al botta e risposta Marotta Lotito. Se vuoi te lo leggo. Marotta vai, che vai. Ha detto: Lotito era definito un personaggio folcloristico, oggi invece è un personaggio che ha un estremo potere e tanto potere in mano a una sola persona è pericoloso, si rischia di finire nel vuoto. E poi allora la risposta di Lotito: io parlo solo con Agnelli, che è proprietario di club come me, Marotta non so nemmeno se sia dottore e poi è un dirigente e non mi sembra che abbia portato grandi novità. Come lottano, Come lottano, vabbè, questa è la battaglia Juve-Lazio, che è essenzialmente per molti appassionati di dietrologia, e poi la battaglia Tavecchio-Notavecchio, cioè al netto ovviamente di tutte le stigmatizzazioni sacrosante sulla battutaccia delle banane, poi alla fine nella Lega di Serie A ci si è spaccati, perché poi ci sono questi due gruppi. Da una parte c'è Lotito, Galliani, Preziosi e la maggioranza delle società, numeri alla mano mi sembra abbastanza evidente. Dall'altra c'è un fronte con Juve, Roma, la Fiorentina, al netto di rapporti non idilliaci direi tra Della Valle e Agnelli, anche dal punto di vista calcistico ma anche extracalcistico. E quindi insomma poi alla fine è questo. Sì, poi apro e chiudo un inciso, poi parliamo con gli ascoltatori. Mi ha fatto sorridere l'Inter, ti ricordi il messaggio di benvenuto a Tavecchio, presidente della Federcalcio, 7-8 righe, una e mezza per spiegare che adesso sarebbero arrivate le seconde squadre per lanciare i giovani. Sì. Secondo Consiglio Federale, ovviamente seconde squadre bocciate, ed è passata la multiproprietà, che guarda caso era un'idea di Lotito. No, che Lotito abbia potere, questo è discutibile. La verità è che poi comunque Lotito questo potere l'ha conquistato. Cioè, ma secondo me è un fuoriclasse Lotito, è un fuoriclasse. Se tu da presidente della Lazio, che per carità è un club importante, ma non è la Juventus, non è il Milan, non è nemmeno l'Inter, cioè uno dei tre grandi club, più grandi club di questo campionato, riesci poi ad ottenere tutto quel potere politico, secondo me tu sei un fuoriclasse. No, ma dal punto di vista diplomatico si è mosso benissimo, questo non ci sono grandissimi dubbi. E il verdetto di questa estate è una vittoria schiacciante, insomma, il che non toglie però che fra Juve e Lazio ci sia ovviamente tanta ostilità, tanta rivalità, e questa ostilità e questa rivalità poi ogni settimana, di fronte a qualsiasi piccolo caso accidentale, poi viene a deflagrare in maniera mostruosa. Sì. Posso farti sentire cosa ha detto oggi Tavecchio? Sì, siamo. Tavecchio. Noi riteniamo che le multiproprietà, rispondendo a un concetto di campanile, in Italia noi siamo 8.000 comuni. Se io faccio l'Inter B o l'Inter seconda squadra, non faccio nessun campanile. Se certo. Invece faccio l'Inter col Pontelambro è una società che può concorrere a prendere i giovani dell'Inter per farli giocare. Pontelambro, per dire, una società certo. Che sia di Lega Pro. Noi siamo un paese di 31 milioni di donne e abbiamo 20.000 tesserati. E creare questa sinergia con certo. Il mondo professionistico per dare l'immagine della donna e delle pari opportunità. Se noi non portiamo lo spettacolo a quel livello lì, lei si immagini Roma-Lazio alle 15.30 maschile e alle 13.30 Roma-Lazio femminile, certo. Lei riempie lo stadio. Ma tu te lo immagini Roma-Lazio alle 13.30, Roma-Lazio femminile? No, allora sulle donne devo dire che è veramente un tema caro a Tavecchio. Da questo punto di vista non ci sono dubbi, al di là della gas lì sul termine handicap, che però insomma quella sì mi è sembrata pretestuosa. Quella delle banane è indifendibile, quella sull'aggettivo francamente mi è sembrata pretestuosa. Sì, però no, Pier, adesso con tutto il rispetto mi fa sorridere Tavecchio che dopo aver detto l'Inter Pontelambro, siccome non è terrorizzato dalle gas, sì, deve giustificarsi. Dice, no, Pontelambro, giusto. Ho detto Pontelambro, potevo dire anche un altro. Ho detto Pontelambro, potevo dire Niguarda piuttosto che Albino Leffe o non so quale altro club. Sulle multiproprietà non sono d'accordo. No. Le squadre B mi sembrano un modello, a me piace di più. Come sì, ma anche a me, però mi sembra che il discorso fosse chiuso già quest'estate. Sorrido perché qualcuno dopo l'elezione di Tavecchio, avendolo votato, pensava invece, non so, forse non aveva letto il programma di Tavecchio dove era scritto chiaramente tutto. 800 24 00 24, ma voi ve la immaginate Roma-Lazio femminile alle 13.30 prima del derby per riempire lo stadio? Perché poi c'è bisogno, no? Prima di Roma-Lazio di riempire lo stadio. Però guarda, questo adesso sinceramente non... che male fa? No, non fa male, però secondo me stiamo parlando abbastanza del nulla, Pier. Ci sono tante cose che vanno fatte, per carità, investiamo anche sul calcio femminile, facciamolo, io sono d'accordo, facciamolo anche a livello scolastico, a livello giovanile, liberiamo la possibilità che oggi hanno fino soltanto a una certa età di giocare magari coi maschi, cosa che spesso per tante significa dover smettere, arrivate a un certo punto, però mi sembra che la discussione possa anche vertere su altro, non lo so, io la penso così, Pier. Sì, ma mi sembra che adesso onestamente le cose che stia facendo, stia provando almeno a farle. Leggo parlare della vedo si parla della riduzione a 18 squadre della Serie A. Su Conte, secondo me, ha fatto un'ottima scelta. Insomma, io cioè, secondo me si possono imputare molte cose a questo presidente, una su tutte ovviamente sono state le gaffe, alcune delle quali sono veramente indifendibili, e se probabilmente adesso è difficile giudicare con la testa di un altro, ma insomma forse se mi fossi trovato io in quella situazione avrei rinunciato, certo, in quei giorni, proprio perché non mi sembrava opportuno. Ma dal punto di vista delle cose pratiche mi sembra che onestamente abbia cominciato bene, insomma. Poi vediamo, le possibilità non mi piacciono, però per esempio il discorso delle 18 squadre mi sembra una cosa giusta. La discriminazione territoriale mi sembra che lo scorso anno non fosse applicata. Sì, probabilmente si poteva fare meglio, però anche cambiandolo. Pier, l'effetto è che arrivano multe e basta quest'anno, dimenticatevi la tolleranza zero. Serafino da Genova, Serafino. Eccomi, prego. Eccomi. Bellissimo un derby Genoa-Samp alle 13:30 femminile. Ma tra l'altro Ferrero quest'anno, se non sbaglio, ma devono giocare solo le fighe, basta, da avere gli occhi contenti. Al di là di questo volevo parlare del Napoli, che ho visto domenica scorsa. Io sono genuano, sono simpatizzante, mi è dispiaciuto vedere una squadra improponibile in difesa. Ma come si può proporre il Moretto, che sarà un bravo ragazzo, su quello che vuole, ma nell'uno contro uno per tre volte gli van via, dai. È una squadra, Napoli che ha tanti limiti, ne stiamo parlando. Attacco, dai. E poi perde un portiere che è da bravissima giocata di piedi, a questi due centrali che anche oggi ha preso gol al centro, che non chiudono, ma dove vogliono andare? Secondo me il Benitez lo vedo più come capocuoco. Insomma, Antonio da Napoli. Il Benitez qualcosa ha vinto. Sì, no, difatti. Poi in Italia non ha fatto benissimo anche con l'Inter, però è un allenatore che ha un profilo internazionale. E io credo che il Napoli l'abbia preso per quello, no? L'ha detto De Laurentiis. Però il problema è che era questo l'anno in cui andava fatto quel salto di qualità lì, quello soprattutto a livello europeo. E ripeto, qualche dubbio viene. Antonio da Napoli, Antonio. Sì, io vorrei porre due questioni, la prima di natura tecnica, la seconda diciamo più di profilo manageriale, sempre sul Napoli. Io credo che Benitez sia un buon allenatore, ma il suo modulo non si confà ai calciatori che ha a disposizione. Nel senso che un 4-2-3-1 con i difensori a disposizione di Benitez, secondo me è impraticabile. I due terzini non sono dei terzini che possono condurre questo gioco. Le due ali sono delle ali molto forti, ma che fanno molta fatica a rientrare. Ne consegue che la difesa fa acqua da tutte le parti, non c'è propulsione dai terzini, le ali non riescono a fare il lavoro che devono fare ed anche in attacco non si riesce a sfondare. Sì, però Antonio, Pier, a me sembra che sia un anno che parliamo del problema del 4-2-3-1 del Napoli spaccato in due. Insomma, Benitez avrà pure voce in capitolo nella costruzione di questa squadra, o gliela fa De Laurentiis. Benitez ha anche detto quest'anno a Di Maro che avrebbe pensato ad altri moduli, quindi insomma almeno a parole ha mostrato una disponibilità, una flessibilità, una disponibilità a cambiare, che invece fin qui non si è vista. No, io sono d'accordo sul fatto che questo modulo non mi convince, non mi ha convinto tante volte l'anno scorso, mi sembra che tutto l'anno scorso ci sia stato un problema Hamsik, che è stato un problema prima di tutto fisico, perché si è fatto male, lui aveva cominciato benissimo col Napoli, poi però dopo l'infortunio una serie di motivazioni anche di carattere psicologico l'hanno portato a far malissimo, e io però penso che ci siano anche gli aspetti tattici, cioè Hamsik nel gioco di Mazzarri era un giocatore che trovava campo, che riusciva a sfruttare la sua velocità e il suo tempo dell'inserimento. Col 4-2-3-1 tende a essere molto più schiacciato sulla linea del trequartista, sulla linea in pratica degli altri due esterni, e trova molto meno spazio. Io qualche volta il centrocampo a tre l'avrei provato, lo dico sinceramente, così venendolo da fuori, però ecco, da qui adesso a pensare che Benitez sia, no, un capocuoco, come diceva Serafino prima, mi sembra questo è uno degli allenatori top. Sì, stiamo esagerando, sono, no, è proprio uno degli allenatori top che ci sono in giro in Europa. Insomma, le critiche si possono fare perché questo Napoli merita di essere anche criticato per come ha approcciato questa stagione. È fra i 10 allenatori che hanno vinto di più in Europa negli ultimi 15 anni, insomma, non ha vinto la Champions, ha vinto l'Europa League, ha fatto stagioni di grandissimo livello, e non con la squadra migliore, ha vinto col Valencia in partenza. Ciao Pier. Buona partita. Ciao, grazie. Ciao. A domani, traffico. Diciamo che Optipopà è venuto qua, che prima mangiava le banane e adesso magari gioca titolare nella Lazio, che tra l'altro con tutti quegli Optipopà, diciamo, qualcosa fuori, che sono svantaggiati nella corsa, un po' come i nani. Tutti convocati. Passati 18 anni e 27 giorni dal 18 agosto 1996, dalla prima vittoria nel moto mondiale di Valentino Rossi. Eravamo a Brno e adesso Rossi si appresta a diventare il pilota con la striscia più lunga di sempre, battendo proprio Loris Capirossi. 18 anni e 27 giorni, tira sull'anteriore Valentino Grandissima Rossi. Gara, grande! Valentino Rossi segue Jorge Lorenzo. Grande soddisfazione vincere, poi dai, ultimamente no, con Marquez non è che succede tante volte vincere. Oggi sapevo che era l'occasione giusta e poi farlo qui a Misano è stato speciale, e devo ringraziare tutti perché qui la Yamaha era in vantaggio rispetto alla Honda, quindi io e Jorge ce la siamo potuta giocare e sono riuscito ad andare davanti. All'inizio ero veloce, poi ho cercato di controllare Jorge, però mi sono proprio divertito. E ci siamo divertiti tutti, eh? Roberto Ungaro, direttore di Riders, ciao. Ciao, buonasera a tutti. Ci siamo divertiti. Vale is back, vale quattro lettere, è vita, è moto, e tutti noi abbiamo bisogno di lui, quindi c'è da gioire davvero. Sì, non succedeva da un po' che vincesse, il conto poi lo fai tu, credo 13, 14, 15 mesi, ma conta poco, perché comunque questa è una grande stagione, questa è la ciliegina sulla torta, però io oggi facevo il conto, 8 podi, 4 secondi posti, 4 terzi posti, questa, ripeto, è la ciliegina, però Valentino Rossi forse non è mai andato via, non è quello che era, ma c'è anche un fenomeno, c'è una moto che fin qui era stata superiore, la Honda. Vale è stato 2 anni nel freezer, sono i 2 anni Ducati, lui non si è mai perso e secondo me la cosa bella è che lui ha 35 anni e dimostra che l'uomo se vuole ce la può fare. L'uomo ha la meglio sulla tecnologia, questo avviene nelle moto, forse nella Formula 1 no, e però lui è l'esempio, ci ha sempre creduto, gli mancava un pelino, voleva fare il casco così con un pelo, sapete la grafica che gli ha dedicato Drudi, poi molto bella la partecipazione delle mani, corale della sua squadra, perché davvero Misano ti dà una mano, ma ci ha sempre creduto. Il Vale di quest'anno forse è il Vale più forte degli ultimi anni, ancora prima della Ducati, della sua esperienza negativa, perché dobbiamo calcolare la sua età, dobbiamo calcolare i giovani che avanzano, che hanno un'altra tecnica di guida, lui si è adeguato, ci ha creduto, è vero, è a casa, però abbiamo visto l'inizio della gara e quando sia Jorge e Marquez si sono fatti sotto, lui ha respinto i sorpassi, li ha restituiti e quindi non gli è arrivato niente gratuito, è una vittoria che se l'è conquistata, tutto il weekend ha girato veloce, c'era, la moto ha fatto grandi passi, ma lui è sempre stato lì e secondo me la cosa che più bisogna darle atto è che lui non ha mai smesso di crederci e vederlo vincere secondo me a casa sua è una gioia per tutti, non lo si può non amare, al di là di tutto si può tenere per lui oppure no, ma come persona, come fenomeno, come icona, ripeto, tutti noi abbiamo bisogno di lui, appassionati e non, è una metafora troppo banale, ma in questo momento in Italia ragazzi 4 lettere come lui valgono davvero tanto. tanto e avremo bisogno tutti di lui, di questo gesto. Sì. Risentire l'inno italiano. Sì, sì. Ha fatto bene, ha fatto bene. C'eravamo disabituati. Tra l'altro oggi è stata una grande giornata in assoluto per il tricolore, sì, nelle moto. Dovizioso è arrivato quarto con la Ducati e ha fatto insomma uno dei risultati migliori di questa stagione. Marquez è scivolato, decimo giro, è finito lontanissimo dal podio, però lo possiamo dire, Valentino Rossi non ha vinto perché Marquez è caduto, anche se è vero che aveva Marquez alle costole fino al decimo giro, sarebbe stato probabilmente un duello bellissimo fino alla fine. Sì, perché in quei dieci giri abbiamo visto un Valentino che ci credeva, ha restituito i sorpassi, quello che dicevo prima, quando è stato punzecchiato ha sempre risposto, è tornato davanti, cioè lì sembrava voler dire qui siamo a casa mia, non passi, non c'è storia, dobbiamo giocarcela fino all'ultima curva, e così è stato, quindi non gli è stato regalato niente, è un Valentino vero che ha aspettato fino adesso, se l'è costruita per tempo, la pazienza gli ha dato ragione e ripeto, noi tutti appassionati e non tifosi dell'Italia, questo è un grande momento, dobbiamo credere come ha fatto lui. Sì, diamo anche qualche numero, 5.012 punti raccolti in carriera e credo questo sia un record, abbiamo sentito battuto il record che apparteneva a Capirossi di longevità sì, nelle vittorie. Ma Valentino, ragazzi, sono lì i titoli a dimostrare, ma quello che è bello analizzare è che quando lui ha iniziato era un altro mondo, se parliamo di tecnologia, lui dopo i due tempi, le quattro tempi, è riuscito ad adattarsi e si difende con questi giovani che invece sono nati con la quattro tempi. Marquez lo vediamo guidare così perché è nato sulla quattro tempi, la Moto2, e invece lui ha fatto la scuola della 2.5 che è una guida tutta più rotonda, diversa, quindi fa molta più fatica, ciò nonostante si mette sempre in discussione, ci prova e oggi è stato premiato, quindi onore al merito. Sì, prima di salutarti mi aiuti a capire se con una moto performante dall'inizio alla fine della stagione magari l'anno prossimo Valentino Rossi può pensare di fare la stagione per togliersi lo sfizio più grande, cioè non la ciliegina sulla torta di una vittoria e 8, 9, 10 podi, ma magari pensare di poterlo fare il mondiale? Questo diventa difficile, se dobbiamo analizzare da addetti, appassionati ma esperti, dobbiamo dire che Honda e Marquez è un connubio davvero difficile da superare. La Honda è nettamente superiore in questo momento alla Yamaha. Misano è una pista che premia la guida pulita, la curva arrotondata, ecco perché Lorenzo è imbattibile lì. Marquez non è riuscito a mettere sul tavolo il suo jolly, che è la sua guida dove fa le grandi staccate, intraversa la moto e subito esce spigolando. Misano è una curva, è una pista dove si arrotonda, quindi la guida di Lorenzo un po' vecchio stile anche come Valentino, ecco perché poteva essere vantaggiato, la Yamaha era punto, ma in questo momento Honda e lo stile di guida di Marquez sono riferimento ed è davvero difficile pensare di poter dibattere nell'economia di un campionato. Marquez ti passa a destra e a sinistra dove vuole, ritarda la staccata e ti infila quando meno te lo aspetti. Invece le due Yamaha hanno bisogno di una traiettoria fissa, costante, pulita, e quello è il loro binario e quindi diventa difficile. Abbiamo visto le battaglie anche con Lorenzo, sì, è fortissimo. Marquez però, che mi pare abbia anche un po' chiuso il gas in questa fase della stagione col mondiale di fatto messo in tasca. Roberto, ti ringrazio. A voi, alla prossima. Roberto Ungaro, direttore di Riders. Abbiamo finito, c'è l'Italia della Davis che è stata eliminata dalla Svizzera 3-1. Oggi Fognini non ha fatto il miracolo con Federer. Noi ci fermiamo qui. Io ringrazio Giorgio De Luca, autore di questa puntata, Pietro Lacorte e Roberto Scaltritti in regia. L'appuntamento è domani, ci sono ancora io con Pierluigi Parto dalle 14 alle 16. Ciao. Volevo salutare, adesso lo faccio, Mi riprendo il microfono. No, vuol... Grazie, saluto tutti e forza Italia!